Eccoci dunque in diretta con l'altro capo del telefono, Riccardo Antonini. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Allora, domani 25 luglio a partire dalle ore 10:30 l'assemblea 29 giugno ha indetto un presidio che appunto coinvolgerà familiari delle vittime della strage di Viareggio e cittadini per chiedere le dimissioni di Moretti, o più che le dimissioni anche il fatto che non sia rinominato appunto dal Ministero dell'Economia ai vertici di Ferrovie dello Stato, cioè come amministratore delegato. Sarebbe certamente, insomma, una notizia davvero spiacevole e anche abbastanza vergognosa per ciò che è successo, le responsabilità che hanno i vertici di FS nella strage del 2009, e certo sarebbe in certo senso incompatibile la posizione di Moretti, rinviato a giudizio dal GUP del Tribunale di Lucca per la strage, cioè con l'imputazione di omicidio plurimo colposo. È evidente, insomma, che i familiari delle vittime non ci stanno. Dunque domattina è un appuntamento importante, Riccardo. Sì, noi domani, come assemblea 29 giugno e come associazione dei familiari delle vittime, saremo presenti dalle 10:30 in poi, terremo un presidio di denuncia e di protesta, perché è previsto la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, quindi la rinomina di Moretti ad amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, che oggi si chiama Ferrovie dello Stato Italiane. Saremo lì per fare questa protesta, per dire chiaramente che è vergognoso che venga rinominato Moretti, per tutte le responsabilità oramai accertate anche dal tribunale, perché lo ha rinviato a giudizio. Lui è stato prima indagato, poi imputato e il 18 luglio rinviato a giudizio. Domani è il 70° anniversario della caduta del fascismo, 25 luglio 43, noi saremo lì perché cada anche Moretti, nel senso metaforico che non venga rinominato amministratore delegato. Lui ha poche ore per dimettersi, ovviamente se non lo fa non assume questa responsabilità che doveva assumere da tempo, dovrà essere il consiglio d'amministrazione a non rinominarlo. E quindi chi ha dato fiducia in questi anni deve fare una profonda autocritica e deve destituirlo da questa carica. Lui perché ha attuato una politica di abbandono nei confronti dei pendolari e dei viaggiatori, e soprattutto di abbandono sul tema della sicurezza. Lo sta a dimostrare la strage di Viareggio, numerosi incidenti avvenuti in questi anni in ferrovia, anche gravissimi, da Piacenza a Crevalcore, fino al fatto che nessuno dice, ma purtroppo è la realtà che abbiamo di fronte, che dal 2007 ad oggi sono morti sui binari 40 lavoratori. Questa è una statistica impressionante, vuol dire, tradotto, che ogni 2 mesi sui binari muore un lavoratore. Negli ultimi 2 mesi sono morti 3 ferrovieri a Napoli, a Milano e a Piacenza, e questo è un fatto gravissimo. Vuol dire che, nonostante lui dica che in ferrovia il problema sicurezza non esiste, lui mente sapendo di mentire. Il problema purtroppo esiste, perché ci sono 32 vittime della strage di Viareggio, vittime di altri incidenti tra cui le porte kill, e vittime sui binari di lavoratori ai quali non è garantita la sicurezza necessaria. Questa è la realtà, è triste, e noi continuiamo a condurre questa battaglia. Chiediamo che le dimissioni di Moretti o la non rinomina sia un atto liberatorio ed una scelta a questo punto moralmente obbligata. Certo, insomma, è vero oltretutto che allo scandalo non c'è mai fine. Moretti è stato peraltro qualche anno fa nominato anche Cavaliere del Lavoro, e ovviamente si tratta di, come dire, schiaffi sonori nei confronti di tutti noi, soprattutto di chi ha perso qualcuno nella strage di Viareggio, così come in altri incidenti. Ci sarebbe una normativa, Riccardo, che vieterebbe la nomina in carichi pubblici per i rinviati a giudizio? Forse però non costituisce proprio una scappatoia, visto che si riferisce a reati di tipo amministrativo. Sì, no, il fatto è questo, che noi sosteniamo che questa rinomina è un fatto gravissimo dal punto di vista politico, certo, morale ed umano. L'avvocato Di Moretti, una volta rinviato a giudizio, ha fatto questa disquisizione abbastanza singolare, dicendo che siccome lui è stato rinviato per reati colposi e non dolosi, può essere candidamente rinominato amministratore delegato. Considerando che lui è presidente delle Ferrovie Europee, e il disastro di Viareggio, per non dire la strage ferroviaria annunciata di Viareggio del 29 giugno, riguarda società che sono coinvolte a livello europeo, sia per quanto riguarda la proprietà delle cisterne che le officine di manutenzione, oltre ovviamente alle società FS. E quindi questo è il dato che dobbiamo tener conto. Presidente delle Ferrovie Europee, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato italiane e poi un'altra miriade di cariche onorifiche. Il fatto che sia stato nominato 3 anni fa, a poche ore dal primo anniversario della strage di Viareggio, quindi siamo nel 2010, cavaliere, non è di per sé un fatto onorifico, perché è una nomina che risale alla monarchia. Però, siccome è considerato nell'immaginario collettivo una cosa di un certo tipo, che riguarda ovviamente poteri forti, non certo i lavoratori, e questa la dice già lunga, insomma, il titolo di classe che viene assegnato a questi signori, è chiaro che ha fatto indignare maggiormente i familiari della città di Viareggio. Oltre al fatto che a Viareggio sono state raccolte 10.000 firme, a Viareggio, in una piccola cittadina, per le dimissioni di Moretti, consegnate agli allora presidenti delle Camere, Schifani e Fini, e al ministro dei trasporti Matteoli, e ovviamente sono state cestinate. Oggi c'è una richiesta di dimissioni, tra l'altro presentata 2 giorni fa al Senato dalla senatrice Granaiola. C'è la richiesta del CODACONS, il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, l'associazione utenti del trasporto aereo marittimo e ferroviario, la CGL e la FILT della regione, CGL della regione Calabria, consigli comunali dei comuni della Versilia, familiari di altre stragi che ci telefonano e ci scrivono per dire anche noi vogliamo raccogliere le firme. Per cui c'è un clima di chi è stato protagonista, in particolare i familiari, di questa battaglia, e di chi purtroppo ne ha subito le conseguenze gravissime a Viareggio e non solo, che chiedono queste dimissioni. E il presidente Napolitano non solo assegna il cavalierato, ma non dice niente su queste cose, considerando anche il fatto che sono 3 anni che i familiari gli chiedono un incontro e lui non si è ancora deciso a incontrare i familiari. Questo perché? Non perché è distratto, perché sa che i familiari di Viareggio conducono una battaglia da 4 anni in modo incessante, e sarebbe un incontro sgradevole. Tra l'altro dovrebbe giustificarsi su questo cavalierato all'ingegner Moretti. Diciamo che questo è un po' il clima per cui noi domani siamo a Roma con un presidio. Invitiamo i romani, tutti quelli di buona volontà e disponibili a essere presenti con noi, a sostenere i familiari, a sostenere questa battaglia, perché ci sia la sicurezza che oggi non c'è in ferrovia, i dati purtroppo e la realtà lo confermano. Quindi affinché non sia dimenticata una strage come Viareggio, non rimanga impunita, e quindi ci sia l'assunzione di responsabilità. Noi lo diciamo molto chiaramente al dottor Moretti: deve ritirare immediatamente tutte le rappresaglie attuate in questi anni nei confronti dei ferrovieri che si sono battuti per la salute e la sicurezza in ferrovia, licenziamenti e sanzioni in particolare. Deve dimettersi, cosa che non ha fatto fino ad oggi. In altri paesi europei, non solo, dopo disastri del genere, i ministri dei trasporti e dirigenti delle ferrovie si sono immediatamente dimessi, e poi ovviamente deve anche non tentare, come ha fatto in questi mesi, in questi anni, di scappare da questo processo. La battaglia che abbiamo fatto a Viareggio, l'ultima manifestazione del 29 giugno, c'erano migliaia e migliaia di cittadini in piazza con la testa dei familiari delle vittime. È chiaro che queste mobilitazioni lo hanno inchiodato alle sue responsabilità, lui come tutto il gruppo dirigente delle ferrovie, ovviamente, che noi abbiamo detto sono talmente subalterni e sottoposti che vedremo ora nella battaglia processuale come si scaricheranno le responsabilità. Perché gli avvocati di Moretti nell'udienza preliminare hanno detto che lui non c'entra niente, o se c'entra addirittura dormiva. E gli altri, ovviamente avvocati degli altri dirigenti, hanno detto che a ciascuno il suo, ognuno difende i suoi. Per cui si è anche scatenata una battaglia tra loro. Vediamo se questi sottoposti, questi gattini ciechi che hanno grandi responsabilità nelle società FS ed oggi sono rinviati a giudizio saranno disposti ad accettare ancora l'arroganza di questo Moretti, che non solo licenzia i ferrovieri che si battono per la sicurezza, non solo penalizza sul tema della sicurezza il trasporto pendolare e viaggiatori, ma addirittura si serve anche di persone che ovviamente rivestono quei posti perché devono solamente ubbidire. Senti Riccardo, consentimi a me invece di anche fare un'altra osservazione, perché questo processo inizierà a Lucca il 13 di novembre, ma insomma il tribunale di Lucca ha agito secondo uno schema insomma non proprio anche un po' ignobile, se mi è permesso, perché insomma da una parte si rinviano a giudizio i vertici di FS, dall'altra però si respingono anche i ricorsi con cui tu stesso avevi impugnato il licenziamento, confermandolo praticamente, un licenziamento, ricordiamolo, per aver insultato, diciamo così, proprio Moretti nel corso di una festa del PD. Ovviamente noi registriamo questo ennesimo episodio che ti riguarda come un tentativo di scoraggiare evidentemente il percorso audace, insomma, intrapreso dal comitato 29 giugno da te, volto a far piena luce, no, sul disastro di Viareggio, a accertare le responsabilità, a reclamare soprattutto la sicurezza per i lavoratori, per i cittadini, perché insomma il fatto di Viareggio evidenzia insomma la ferocia di una serie di scelte economico-politiche, insomma, che così possiamo dire di matrice liberista, no? Che hanno ridotto all'osso, come tu ricordavi, i controlli nel trasporto ferroviario, che hanno cancellato i dispositivi di sicurezza, perché tanto insomma i soldi meglio investirli, fra un po' ci arriveremo con una domanda specifica, ma insomma i soldi meglio investirli nell'alta velocità. Questo è quello che sta succedendo nel nostro paese. Ovviamente non voglio indurti a fare considerazioni ulteriori su Moretti, perché i precedenti non hanno giocato dalla tua parte, diciamo, però ti volevo chiedere del fatto dello scorporo che a gennaio ad esempio si ventilava in maniera molto forte, il definitivo, così si diceva, della rete insomma ferroviaria italiana da FS, che ha contenuto in un disegno di legge sulle liberalizzazioni. Poi si è stoppata questa cosa, mi sembra sia stata demandata all'autorità, no? Come stanno le cose adesso? Ma sulla prima questione che dicevi, io ho sempre detto che se vogliamo disarcionare il cavaliere non dobbiamo aver paura di essere trafitti dalle sue lance. Credo che il licenziamento dal punto di vista politico e processuale sia stato un boomerang per Moretti, perché ha consentito ad ogni livello, in ogni forma, di continuare a parlare della strage di Viareggio e della politica di rappresaglia nei confronti dei lavoratori impegnati sul tema della sicurezza. La sentenza del 4 giugno l'abbiamo definita una sentenza di lutto che offende, come era stato il mio licenziamento, le vittime di Viareggio e la città di Viareggio. Quello che è grave, leggendo la sentenza, è che non solo è stato riconfermato il licenziamento per la contestazione a Moretti di Genova, ma anche perché io mi sarei posto in un'evidente situazione di conflitto di interessi, secondo il codice etico dell'azienda. Questo che vuol dire? C'è un fatto gravissimo, diciamo che è una americanizzazione del diritto del lavoro. Vuol dire che quel codice etico del Consiglio di amministrazione dell'FS vale di più della Costituzione, della legge, dei contratti, e quindi è carta costituzionale. Una cosa decisa dai padroni delle ferrovie che deve essere imposta ai dipendenti delle ferrovie. Per cui essermi posto nel conflitto di interessi ho rotto il rapporto di fiducia. Questo è un fatto gravissimo, vuol dire subordinare ogni legge, ogni contratto, ogni diritto dei lavoratori calpestato da questo codice etico, che è la carta costituzionale delle aziende da imporre ai dipendenti. Questo credo sia un fatto politicamente gravissimo, che però denota la natura di classe di una sentenza come quella del 14 giugno, che ha riconfermato il mio licenziamento. questo è il primo dato, farò ricorso in appello, stiamo denunciando queste cose, sottolineando anche il fatto che il magistrato di Genova, per i fatti di Genova, motivo per cui ero stato licenziato, ha chiesto l'archiviazione della mia posizione. Questo quindi diciamo che complica in qualche modo la situazione delle ferrovie e allo stesso tempo ridicolizza in altro modo la sentenza del giudice Nanni Pieri, che qui a Viareggio è stato ormai definito il giudice Nanni Pieghi, perché si è piegato, si è reso subalterno ai voleri di Moretti, che in udienza ha fatto dire ai suoi avvocati che io sono un soggetto deliberatamente predisposto all'insubordinazione, per cui non posso stare in un'azienda come le ferrovie, perché sono uno che tradisce la filosofia di un'azienda che credo che sia ormai maestra rispetto anche alla filosofia Fiat di Marchionne, per quanto riguarda non solo la questione repressiva ma anche la questione dei diritti sindacali, dei contratti e soprattutto di abbandono, di una politica di abbandono sul tema della sicurezza. Ecco, questo è il quadro. Ovviamente l'azione nostra è stata forte di denuncia, mobilitazione, iniziative, abbiamo fatto anche scioperi di lavoratori sul mio licenziamento, la solidarietà è stata la più ampia possibile. È chiaro che di là abbiamo poteri forti, come un po' il processo è semplice, la verità è già scritta, noi faremo di tutto perché questa verità già scritta in qualche misura rientri nelle aule giudiziarie. Questa è un po' la... Sì. E quanto invece alla ventilata ipotesi di scorporo, che ovviamente insomma creerebbe, aggraverebbe definitivamente sotto il profilo proprio appunto della, farebbe precipitare definitivamente, no? le questioni anche legate alla sicurezza in ferrovia, ma non solo, perché poi quello che si teme maggiormente è anche il fenomeno, no, di svendita della forza lavoro, di cosiddetto dumping contrattuale, perché non si avrebbe obbligo di rispetto del contratto nazionale, tanto per dirne una. Sì, no, in questi anni Moretti ha proseguito la politica di smantellamento dei suoi predecessori, mi riferisco a Inverni, Necci, Cimoli, Catania, che hanno smantellato le ferrovie, hanno deregolamentato, hanno privatizzato, liberalizzato. È chiaro che questa politica ha tagliato il personale, ha tagliato i servizi, ha tagliato i presidi, le officine, addetti alla vigilanza, all'ispezione, alla sicurezza, quindi è stata una politica di abbandono delle ferrovie come servizio sociale e della sicurezza e della salute in ferrovia. Quindi la strage di Viareggio sostanzialmente è figlia di questa politica. Oltre al fatto che non sono state rispettate le norme sulla sicurezza, oltre al fatto che non vi sono norme adeguate per il trasporto di quei carri bomba, che trasportano sostanze altamente pericolose e infiammabili, diciamo che c'è una politica, potremmo definirlo un incidente organizzativo, dovuto a quella politica di organizzazione del lavoro che ha imposto una situazione di questo tipo. Quindi la deregolamentazione dell'organizzazione del lavoro è madre di una strage ferroviaria annunciata come quella di Viareggio. Il fatto grave qual è? Che è una strage prevedibile, ma non, stante le condizioni attuali, evitabile. Sembra un paradosso. Per cui noi abbiamo chiesto a gran voce, nella battaglia condotta in questi mesi, che non solo fosse addebitata a questi responsabili della strage di Viareggio il reato colposo, ma anche doloso, perché lavorando in queste condizioni avevano ben chiaro una raffigurazione di una situazione che avrebbe potuto determinare una strage come Viareggio. Non erano ovviamente previsti le 32 vittime e numerosi feriti, ma era previsto uno svio, un disastro, un'esplosione che ha provocato quello che sappiamo. Per cui una strage prevedibile, oggi non evitabile. Penso che lo sia la rappresentazione dei fatti e della realtà rispetto a Viareggio, ma rispetto anche a tante situazioni analoghe alla strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Dicevo sul processo, che è semplice dal punto di vista delle responsabilità, è complicato perché abbiamo di fronte poteri forti e con i quali la battaglia, abbiamo bisogno di consenso, di mobilitazione, di partecipazione per costringere chi di dovere o far capire a chi di dovere che questa strage non deve essere né dimenticata né rimanere impunita e creare le condizioni perché non abbia più a ripetersi. Senti Riccardo, ti trattengo ancora pochi minuti perché vorrei che ragionassimo insieme un po' su un'altra questione che in questi giorni ci ha visto ovviamente molto occupati, e cioè la lotta contro l'alta velocità. Ora, il modo in cui i media trattano la vicenda, anche in riferimento alle ultime proteste, quella della scorsa settimana, come al solito si tendono un po' a coprire le ragioni di questa lotta. Certo, sono ricordate da sempre, a ogni piè sospinto, dai movimenti sociali in modo, diciamo, estenuante, ma insomma è bene sempre ritornarci, perché poi il rischio che si perdano di vista è sempre forte, con ovviamente buona pace di chi cerca di con ogni mezzo di far calare il sipario su questo movimento e presentarlo come isolato, come sconfitto. Allora, l'altro giorno su Repubblica è apparso un articolo dopo ovviamente non aver perso l'occasione di infangare, screditare i Valsusini e chi li sostiene, ma c'era anche questo articolo, insomma, in cui figurava un confronto tra gli orari delle ferrovie di oggi e quelli del 1975. Con forse nemmeno tanta sorpresa ci si rende conto di quanto i treni allora funzionassero meglio. Insomma, di questa situazione è evidente che ne sono a conoscenza diretta sempre i pendolari, quei circa 3 milioni, perché ricordiamolo, sono tantissimi di pendolari che tutti i santi giorni si muovono, fanno i salti mortali per cercare di raggiungere il posto di lavoro, viaggiando in condizioni vergognose. E questo è evidente che è in rapporto anche agli investimenti che si fanno per la TAV, no? Sì, sul tema dell'alta velocità in Val di Susa, credo che io sono stato là a tenere dibattiti come in tantissime altre parti d'Italia, a portare l'esperienza, la testimonianza su questa vicenda che ha coinvolto Viareggio, e ovviamente noi siamo stati solidali con i movimenti e con le istituzioni che sono schierate dalla parte giusta in questa battaglia da oltre 20 anni, perché ritengono quell'opera inutile, dannosa e costosa. Allo stesso tempo tu accennavi alla vicenda dei treni. Oggi sembra un paradosso, ma i treni che riguardano i pendolari e i viaggiatori in generale sono peggiori in generale rispetto ai treni di 40 anni fa, perché la politica dell'abbandono ha determinato questo, privilegiando l'alta velocità, dove ovviamente non siamo più di fronte a pendolari e a viaggiatori, ma vengono definiti clienti. Considerando il fatto che sui treni di alta velocità vi è il dispositivo antisvio, che sarebbe un dispositivo sulle carrozze che deve avvisare il macchinista e frenare i carri che hanno un problema di svio, quindi precedere un eventuale deragliamento. Gli avvocati di Moretti e delle ferrovie hanno detto in udienza che questo barattolo con un sasso, definendolo in questo modo, anche in modo, diciamo, molto volgare, non serve a niente, ma addirittura è più pericoloso. Per cui sui treni di alta velocità si adottano misure di prevenzione e protezione adeguate ai clienti. Sui treni merci ovviamente non si adottano quelle misure perché sono eccessivamente costose. Questa è una logica, noi definiamo la logica dei costi-benefici, che ha il sapore della una logica aberrante, insomma, in cui arrivano addirittura a teorizzare il fatto che con delle buone assicurazioni si può ovviare a disastri come Viareggio, nel senso che costa meno pagare le vittime che non pagare i sistemi di sicurezza che avrebbero evitato quelle vittime. Ecco, questa per dire una delle aberrazioni sentite in udienza, che gli antisvio, tra l'altro adottati su treni di alta velocità, sarebbero inutili nei treni merci che trasportano sostanze altamente pericolose, infiammabili e tossiche. Un'altra amenità è quella che, ad esempio, hanno detto che questi treni merci, maggiore è la velocità e minore è il pericolo, quindi maggiore è la sicurezza. Come dire, un treno di quelle dimensioni, di quella portata, se va a una velocità minore è meno sicuro. Ora, questa è una tesi ridicola e amena, considerando anche che solo a Viareggio quei treni pericolosi possono viaggiare a una velocità non superiore di 50 km/h, a differenza di tutta la rete nazionale dove possono raggiungere i 100 km/h. Allora, questo vorrebbe dire che addirittura a Viareggio si sta lavorando per una seconda Viareggio, perché se i treni che non possono superare in stazione 50 km/h e secondo la loro tesi, andando più piano sono meno sicuri, siamo alla diciamo, se non ci fosse stata una tragedia come Viareggio, insomma, le cose amene, ridicole. Cioè, a Viareggio si sta lavorando per un nuovo 29 giugno 2009. Quindi questo per dire che le tesi che hanno portato gli avvocati di Moretti e degli altri amministratori delegati delle Ferrovie sono state talmente di basso profilo, oltre che offensive nei confronti dei familiari, che non poteva essere attuato dal giudice, perché le carte parlano chiaro, e rinvia giudizio di tutti e 33 gli imputati. Questa è la realtà oggi che abbiamo di fronte, come dicevo prima, un processo semplice per le responsabilità di questa strage ferroviaria, molto complicato perché abbiamo di fronte poteri forti e dobbiamo quindi sviluppare quanto più possibile la solidarietà, l'unità delle forze, la lotta e l'organizzazione per essere all'altezza della gravità della situazione per quanto è avvenuto a Viareggio e per quanto avviene sui binari delle Ferrovie italiane. Assolutamente, le uniche carte che abbiamo da giocarci per sconfiggere questa realtà che tu hai ben descritto con estrema chiarezza, che è davvero raccapricciante, Riccardo. Allora, appuntamento a domani a partire dalle ore 10:30 a Piazza della Croce Rossa, dove si terrà questo presidio per chiedere la non nomina, le dimissioni di Moretti ai vertici di Ferrovie dello Stato. Grazie mille per questa lunga chiacchierata, Riccardo, ciao. Grazie a voi, buon lavoro e speriamo a domani di essere in diversi anche da Roma. Certo, ciao ciao. Ciao ciao.